contro coloro che ritengono che l'espressione fanciulli e bambini alluda al primo livello dell'insegnamento, la perfezione conferita dal battesimo. Adesso abbiamo argomenti più che sufficienti per poter affrontare quelli che amano fare contestazioni. Noi, in vero, non ci denominiamo fanciulli e bambini a motivo della puerilità e spregevolezza delle nostre cognizioni, come sostengono calunniosamente questi uomini gonfi di scienza. Quando siamo stati rigenerati, abbiamo subito ricevuto in noi la perfezione alla quale aspiravamo. Siamo stati illuminati in quanto abbiamo conosciuto Dio, e certamente non può essere imperfetto colui che ha conosciuto il perfetto. E non sdegnatevi con me se dichiaro di aver conosciuto Dio. Il Logos stesso ha ritenuto giusto affermarlo ed egli è libero di dirlo. Così, quando il Signore fu battezzato, risuonò una voce dal cielo per rendere testimonianza all'amato di Dio. Tu sei il mio figlio amato, oggi io ti ho generato. Ora interroghiamo questi presunti sapienti. Cristo, essendo stato rigenerato oggi, è già perfetto? Oppure, il che sarebbe totalmente assurdo, gli manca ancora qualcosa? E se è così, allora deve ancora apprendere. Ma è evidente che egli, essendo Dio, non ha assolutamente nulla da imparare. Nessuno infatti potrebbe essere più grande del Logos e maestro dell'unico maestro. Ammetteranno allora, seppur controvoglia, che il Logos, nato perfetto dal perfetto Padre, è stato perfettamente rigenerato ed è stato così una prefigurazione nel piano dell'economia divina? Ma se era perfetto, perché è stato battezzato? Risponderanno forse, doveva compiersi la promessa annunciata all'umanità. Giustissimo, anch'io lo dico. Dunque è nel momento stesso in cui viene battezzato da Giovanni che diventa perfetto? Certamente. E da lui quindi non apprese nulla di più? Nulla. Ma allora egli è reso perfetto dal solo lavacro battesimale ed è santificato dalla discesa dello Spirito. Proprio così. Ebbene, tutto ciò vale anche per noi, giacché il Signore è un modello per noi. Essendo battezzati, veniamo illuminati. Illuminati siamo adottati come figli. Adottati come figli diveniamo perfetti, ed essendo perfetti siamo resi immortali. Io l'ho detto, afferma la Scrittura, voi siete dei e tutti figli dell'Altissimo. Questa operazione viene chiamata in molti modi: grazia, illuminazione, perfezione, lavacro. Lavacro tramite cui ci mondiamo dai peccati, grazia in virtù della quale ci sono state condonate le pene per i peccati, illuminazione grazie alla quale contempliamo quella santa luce della salvezza, cioè vediamo con sguardo penetrante Dio, perfezione infine che è il non aver più bisogno di nulla. Che cosa manca infatti a chi ha conosciuto Dio? Sarebbe assurdo chiamare espressamente grazia di Dio un dono non completo. Egli è perfetto e certamente elargisce in grazia doni perfetti. Come in vero ogni cosa avviene nel momento stesso in cui egli lo comanda, così quando egli vuole elargire una grazia, la grazia è subito perfetta e completa. In tal modo ciò che è futuro è già contenuto nella potenza del suo volere. D'altronde, la rinuncia al male è già l'inizio della salvezza. Appena varchiamo le soglie della vita, subito siamo perfetti e subito abbiamo la vita, in quanto separati dalla morte. Ma la salvezza è seguire Cristo. Infatti, ciò che è stato fatto in Lui è vita. E afferma, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna. E non giunge alla condanna, ma è passato dalla morte alla vita. Di conseguenza basta credere ed essere rigenerati con il battesimo per raggiungere la perfezione nella vita. A Dio, infatti, non manca mai la forza. E come il suo volere è opera, e tale opera è chiamata universo, così la sua volontà è la salvezza degli uomini ed è chiamata Chiesa. Egli conosce quelli che ha chiamato e quelli che ha chiamati li ha salvati. poiché li ha allo stesso tempo e chiamati e salvati. Voi siete, dice l'Apostolo, istruiti da Dio, e a noi non è lecito ritenere imperfetto ciò che Egli ci insegna. La sua dottrina è eterna salvezza dell'Eterno Salvatore, e a Lui appartiene la grazia nei secoli. Amen. Basta che uno sia rigenerato e subito, come indica il suo nome, è illuminato, cioè appunto separato dalle tenebre, e riceve in sé per ciò stesso la luce. Come chi si scuote di dosso il sonno diventa per ciò stesso immediatamente sveglio, o meglio, come chi si toglie la mucosità dagli occhi vede la luce, ma non perché egli la fa entrare da fuori nei suoi occhi che non la posseggono, bensì semplicemente perché, eliminando l'ostacolo che impediva la sua vista, lascia libere le pupille. Così noi, una volta battezzati, spazziamo via i peccati che, a mo' di nube, facevano ombra allo Spirito Divino, e rendiamo in tal modo libero, senza impedimenti e luminoso, l'occhio dello Spirito, il quale solo ci permette di contemplare la divinità grazie allo Spirito Santo che dall'alto del cielo fluisce in noi. Questa è come una mescolanza di una luminosità eterna, capace di vedere l'eterna luce. Il simile, infatti, ama il suo simile, e così ciò che è santo è amato dalla fonte della santità, la quale è detta luce nel senso più vero. Eravate un tempo tenebre, ora siete luce nel Signore. Per questo credo che gli antichi chiamassero l'uomo luce. Ma si dirà, l'uomo non ha ancora ricevuto in questa vita il dono perfetto dell'aldilà. Sono d'accordo, eppure egli è nella luce e l'oscurità non lo tiene nelle sue mani. Tra la luce e le tenebre, infatti, non c'è via di mezzo. Ma il compimento è riservato per il giorno della risurrezione dei credenti. E questo non significa che quel giorno riceveremo qualcos'altro, bensì semplicemente raggiungeremo quello che ci era stato promesso in precedenza. Non affermiamo infatti che avvengano nello stesso tempo le due cose, cioè l'approdo al termine ultimo e la precognizione di tale approdo. L'eternità e il tempo non sono la stessa cosa, né lo slancio iniziale e il raggiungimento della meta. Eppure entrambi questi atti hanno lo stesso oggetto e l'uno li abbraccia entrambi. Si potrebbe dire che lo slancio è la fede, concepita nel tempo. La meta, invece, è il raggiungimento stabile per sempre di ciò che è stato promesso. Il Signore stesso ha proclamato chiaramente questa unità della salvezza, dicendo: «Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». L'illuminazione battesimale. Noi crediamo dunque di essere divenuti perfetti per quanto possibile in questo mondo. In verità è alludendo adesso che il Signore parlò dell'ultimo giorno tenuto da parte fino a quando il mondo avrà fine. Ora la fede è l'insegnamento allo stato perfetto. Per questo sta scritto: chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Se dunque noi che crediamo abbiamo la vita, che cosa ci resta ancora da ottenere dopo aver acquistato la vita eterna? In effetti, nulla manca alla fede che è da sé perfetta e compiuta. Se le manca qualcosa, allora non è totalmente perfetta, non è fede, poiché zoppica. Invero, nulla di nuovo attende i credenti quando essi lasciano questo mondo, poiché tutti hanno già ricevuto quaggiù il loro pegno. Ma quella meta futura che già qui con la fede preassaggiamo, dopo la resurrezione la raggiungeremo realizzata, affinché si adempia quel che sta scritto: avvenga a te secondo la tua fede. E dove è la fede, lì è la promessa, e il perfetto compimento della promessa sarà il riposo finale. Perciò la conoscenza si trova nell'illuminazione del battesimo, ma il termine ultimo della conoscenza sarà il riposo finale che noi contempliamo come l'ultimo approdo delle nostre aspirazioni. Pertanto, come l'inesperienza si dilegua con l'esperienza e l'indigenza con il guadagno, così l'oscurità, è necessariamente annientata dall'illuminazione battesimale. L'oscurità è l'ignoranza, a causa della quale inciampiamo nei peccati, avendo una vista troppo indebolita per riuscire a vedere bene la verità. Quanto all'illuminazione, essa è la conoscenza, annienta l'ignoranza e ci dona una vista acuta. Ugualmente, respingendo le cose cattive, si ha il disvelamento di quelle buone. Infatti, ciò che l'ignoranza teneva legato nel male, la conoscenza lo scioglie per il bene. Da queste catene siamo liberati in breve tempo, sia per fede umana che per grazia divina, e un unico farmaco guaritore ci scioglie dai nostri delitti, il battesimo del Logos. Noi dunque veniamo lavati da tutti i nostri peccati e in un batter d'occhio non siamo più cattivi. Questa è la grazia unica dell'illuminazione battesimale, che il nostro modo di essere, una volta lavati nel battesimo, non è più lo stesso di prima. La conoscenza, infatti, sorge come un astro nel momento dell'illuminazione e irradia il nostro intelletto. Allora, subito, pur non avendo mai appreso nulla, ci sentiamo chiamare discepoli che apprendono. L'apprendimento ci è stato dato in precedenza e non sapremmo dire in quale momento preciso, poiché la catechesi conduce lentamente verso la fede, ma poi la fede, all'istante del battesimo, è tutta insieme istruita dallo Spirito Santo. L'Apostolo stesso, infatti, con molta chiarezza illustra che la fede è l'unica e universale via di salvezza dell'umanità e che Dio, giusto e amorevole, è uguale e comune per tutti. Prima dell'avvento della fede noi eravamo rinchiusi e sorvegliati sotto la legge, in attesa della rivelazione della fede. La legge fu quindi per noi un pedagogo per guidarci a Cristo, affinché dalla fede fossimo giustificati. E una volta venuta la fede, non siamo più sotto il pedagogo. Udite? Non siamo più sotto quella legge che agiva tramite il timore, bensì sotto il Logos, pedagogo del nostro libero arbitrio. Poco più sotto, poi, l'Apostolo aggiunge parole che eludono qualsivoglia parzialità o preferenza. Tutti voi, tramite la fede, siete figli di Dio in Cristo Gesù. Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, e non c'è più giudeo né greco, non più schiavo né libero, non più maschio né femmina. Tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Quindi non sono gli uni gnostici e gli altri nel medesimo Logos psichici, ma tutti sono uguali e tutti spirituali agli occhi del Signore, dal momento che hanno abbandonato i desideri della carne. Altrove scrive ancora: «In un solo spirito, noi tutti, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, siamo stati battezzati per costituire un unico corpo e siamo stati abbeverati tutti con un'unica bevanda». Tuttavia, possiamo ben servirci delle parole usate da loro. Essi dicono che il ricordo del bene è come un passare al colino lo spirito. Per passare al colino intendono il separarsi dal male in conseguenza del ricordo del bene. Ne consegue di necessità che chi ha concepito in sé il ricordo delle cose superiori si pente di quelle inferiori. Dicono che è lo spirito stesso a pentirsi e a risalire verso l'alto. Ugualmente, anche noi, una volta pentiti dei nostri errori, abbiamo rinunciato ai danni che ne derivavano e, passando al colino del battesimo, corriamo ora in alto verso l'eterna luce, fanciulli verso il Padre. Gesù esultò nello spirito e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Dio del cielo e della terra, perché hai celato queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai bambini». Ci chiama bambini il nostro pedagogo e maestro, additandoci come meglio disposti alla salvezza. Meglio dei sapienti del mondo che, credendosi sapienti, si sono resi ciechi. Esultando pieno di gioia, quasi unendosi al balbettio dei bimbi, egli prorompe in questo grido: «Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te». Pertanto, ciò che è stato celato ai sapienti e agli intelligenti di questo mondo presente è stato manifestato ai bambini. Bambini, evidentemente, siamo noi, fanciulli di Dio, che abbiamo deposto l'uomo vecchio e ci siamo spogliati della tunica dell'iniquità, rivestendoci dell'incorruttibilità di Cristo per essere nuovi, popolo santo e rigenerati, custodire noi stessi immacolati ed essere bambini come neonati di Dio, purificati da ogni fornicazione e malizia. Duplice significato di bambino. Una chiara soluzione a questa nostra indagine ci è stata fornita dal Beato Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, dove scrive: «Fratelli, non siate bambini nei vostri giudizi. Di fronte al male siate come bimbi, ma nei giudizi siate perfetti». E dicendo: «Quando ero bambino ragionavo come un bambino e parlavo come un bambino», allude alla sua condotta sotto la legge, allorché con ragionamenti infantili perseguitava il Logos e con parole infantili lo bestemmiava. Non era uno che aveva già raggiunto la semplicità dei bambini, ma era uno che ancora, come un bambino, non aveva giudizio. I significati di bambino, infatti, sono due. Dice ancora Paolo: «Dopo che divenni uomo, eliminai ciò che era infantile». Rigettando come estranee le cose dell'infanzia e dichiarando di eliminarle, l'Apostolo non vuole con ciò alludere ad un'età non ancora completa, né ad un arco di tempo determinato, e neppure all'insegnamento segreto di altre dottrine speciali più perfette, riservate agli uomini adulti nell'agnosi, ma semplicemente chiama bambini quelli che sono sotto la legge, i quali sono agitati dalla paura, così come i fanciulli dagli spauracchi, e chiama invece uomini coloro che sono docili al Logos e padroni di sé. E questi, appunto, siamo noi, che abbiamo creduto e siamo salvati per una nostra scelta volontaria. E la paura che proviamo è frutto di saggezza, non di stoltezza. L'Apostolo stesso testimonia ciò quando dice che i giudei sono gli eredi secondo la prima alleanza, noi invece secondo la promessa. Dico che finché l'erede è bambino, in nulla si distingue dallo schiavo, pur essendo padrone di tutto, è sottoposto a tutori e amministratori fino al giorno prefissato dal Padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo asserviti agli elementi del mondo. Allorché però giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, affinché riscattasse quelli che erano sotto la legge, e noi ricevessimo per mezzo suo l'adozione a figli. Vedi dunque che egli designa come bambini quelli che sono soggiogati alla paura e ai peccati, figli invece quelli che sono sotto la fede. E considera questi ultimi uomini adulti in contrapposizione ai bambini che sono sotto la legge. Ora, dice, non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio anche erede per opera di Dio. E che cosa manca al figlio dopo aver ricevuto l'eredità? È bello, dunque, spiegare quel passo dove dice «quando ero bambino» nel modo seguente. «Quando ero giudeo, egli infatti era di origine ebraica, ragionavo come un bambino, dal momento che seguivo la legge. Da quando però sono divenuto uomo, non ho più pensieri di bambino, cioè della legge, ma pensieri di uomo, ossia di Cristo, che, come abbiamo detto più sopra, la Scrittura designa come unico uomo, e quindi ho eliminato ciò che era infantile. Quanto invece all'infanzia in Cristo, essa rappresenta la perfezione in confronto alla legge». Giunti a questo punto, è doveroso che prendiamo le difese del nostro concetto di infanzia. È necessario inoltre che spieghiamo quel che dice l'Apostolo: «Vi ho abbeverati con latte, come bambini in Cristo, non con cibo solido, non eravate infatti ancora in grado di assumerlo, e neppure adesso siete in grado». Mi pare che queste parole non siano da intendere come riferimento alla legge giudaica. Citerò in effetti, parallelamente a questo, un altro testo della Scrittura. «Io vi condurrò verso la terra buona, dove scorre latte e miele».